Buonasera a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Default. Eccoci qui con la puntata numero 8 di Whiskey Trip Blues e Jazz Solo Andata. E questo era Mad Lux Lewis, un famoso pianista con la sua Honky Tonk Train Blues. Prima di noi ha introdotto la nostra puntata niente meno che Live in Japan di John Coltrane. E invece in apertura abbiamo ascoltato questo Mad Lux Lewis con il suo Boogie Woogie Honky Tonk Train Blues. E la settimana scorsa siamo stati in vacanza, era il 1º maggio, e durante la nostra assenza nel mondo sono successi molti fatti, vero Antonio? In particolare, c'è stato un fatto che ha dell'incredibile, una notizia che davvero ha dell'incredibile. Paranormale, paranormale. Io non. Alessandro, mi credi? Io non avrei mai detto. Nessuno di noi lo credeva possibile, ma invece sembra proprio che. Come hai reagito? Dimmi come hai reagito tu. Che hai fatto quel giorno? Ho detto no, non ci credo. No, no, non ci credo. Io ho lasciato tutto quello che c'avevo da fare. Ho dato il via a una settimana ininterrotta di festeggiamenti, quindi già non volevo venire stasera, non te giuro. Poi vabbè, per Whiskey Trip l'ho fatto. Che vogliamo dire? O diciamo dopo? Non lo so, dimmi tu. Diciamolo dopo il prossimo pezzo, intanto magari i nostri ascoltatori possono prepararsi. Allora, io ho trovato una canzone, si chiama You Was Born to Die. Così, non lo so, magari spero non sia triste il testo, ragazzi, non lo. Ci ascoltiamo Blind Willie McTell, Alessà? Certo. E allora dai. Woman that run around, stay out in the street, act like a barefoot clown. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Some dream high yellow, something black and brown. I got a black woman, she's the sweetest woman in town. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Play it now for me. I do it Auburn Avenue, girl. I'm home this morning, face full of frown. I know about that baby. You've been running around. You made me love you. did remember that you were born to die. Now look here, woman, give me your right hand. I go to my woman, you go to your man. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Ed era Blind Willie McTell. E allora, ancora per prepararci alla notizia, a commentare poi insieme i fatti del giorno, e intanto nel frattempo io ascolterei un altro pezzo, e un altro pezzo sempre un blues. Vi proponiamo un pezzo di Hoodie William Ledbetter, meglio conosciuto come Led Belly, un musicista, cantante, polistrumentista, autore di canzoni, che è già passato qui su Radio Default, ma lo riascoltiamo volentieri, di persona certamente. E un'icona del blues e del folk americano, nato nel 1888 in Louisiana, morto a New York nel 1949. Led Belly era uno fuggito di casa a 7 anni, fu un giovane violento, conobbe diverse volte il carcere, fu proprio nei penitenziari che imparò a suonare il folk e il blues. Tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, del secolo che appena se n'è andato, interpretò e registrò centinaia di canzoni. Ascoltiamo la sua versione di un brano tradizionale che si chiama In the Pines, che lui ha registrato con il titolo Where Did You Sleep Last Night, un titolo che credo e molti di voi conoscono. È una canzone che ci racconta qualcosa delle sofferenze di un amore morboso. E vai, Antonio. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would all night too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would all night too. Shiver for me now. Happened down there. My husband was a hard working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My good, My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me somebody. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet you all night too. Led Belly è stato anche uno dei più importanti esponenti della musica blues e virtuoso della chitarra a 12 corde, appartenente alla tradizione del Delta Blues, come diceva Alessandro, ma anche alla tradizione afroamericana. I suoi brani e il suo apporto stilistico sono stati di particolare influenza per innumerevoli artisti successivi. Lo ascoltiamo in due pezzi, allora direi resi poi più famosi da altri artisti. Black Betty, trasformata poi in un furioso hard rock dai Ram Jam negli anni 70, e The House of the Rising Sun, canzone folk statunitense reincisa nel 64 dai The Animals, nella versione più celebre, diciamo, ma anche da Bob Dylan, John Baez, Jimi Hendrix, Nina Simone, Tracy Chapman e moltissimi altri ancora. Vi lascio quindi, ragazzi, alle note del grande Led e buon ascolto su Radio Default. Jump sturdy black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, looky on a black bitty, bam a lamb, looky on a black bitty, bam a lamb, turn around black bitty, bam a lamb, jump down black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, black bitty had a baby, bam a lamb, black bitty had a baby, bam a lamb, little thing went crazy, bam a lamb, little thing went crazy, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, jump steady black bitty, bam a lamb, jump steady black bitty, bam a lamb, look at yonder black bitty, bam a lamb, look at yonder black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, little thing went blind, bam a lamb, a little thing went blind, bam a lamb, the city wasn't none of mine, bam a lamb, the city wasn't none of mine, bam a lamb, what about a black bitty, bam a lamb, what about a black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, oh black bitty, bam a lamb, look at yonder black bitty, bam a lamb, jump steady black bitty, bam a lamb, run yonder black bitty, bam a lamb, turn around black bitty, bam a lamb, eh black bitty, bam a lamb, eh black bitty, bam a lamb, look at yonder black bitty, bam a lamb, run around black bitty, bam a lamb, jump down black bitty, bam a lamb, turn around black bitty, bam a lamb, eh black bitty, bam a lamb, eh black bitty, bam a lamb. There is a house in New Orleans. E allora prima si parlava di un personaggio misterioso, di una notizia importante avvenuta in questi giorni e comunque qui intanto, anche se questo personaggio sembra averci lasciato, qui in radio è rimasta la sua tosse, che come ospite di questa sera ci sarà la tosse. Infatti potete sentire insomma in sottofondo alcuni colpi. Comunque proseguiamo intanto nel blues, perché secondo me ci sta benissimo. E allora vi propongo uno dei padri del Texas Blues, parlo di Blind Lemon Jefferson, che come dice il suo soprannome, sì, era cieco ed è stato uno dei quei arcaici bluesmen che si sono fatti le ossa nelle strade, nei carrozzoni dei cantanti nomadi e nei bordelli. Blind Lemon Jefferson morì a soli 36 anni per le strade di Chicago, mentre vagava per le strade di Chicago. Alcuni dicono perché si era perso nella notte in una tempesta di neve, altri perché avvelenato per un delitto passionale. E qui so che Antonio vuole fare un commento. Non era morto a 94? Che stai, che intendi? Scusa, di chi stai a parlare? Non so, 94 è campato, cioè sa, non se ne poteva più, come 30, che hai detto 36? Sì, 94, ma 36 non era ancora molto conosciuto, ma era già iniziata la sua carriera, se ci pensi bene. Non stiamo a parlare della stessa persona. Forse no, forse no. Vuoi allora intervenire fra poco? Dopo ne parliamo. Dopo il pezzo. E allora ci ascoltiamo questo pezzo di Blind Lemon Jefferson, che canta questo blues che si intitola Matchbox Blues, con una voce pura e dolente. E le ossessioni delle canzoni di Blind Lemon Jefferson sono le stesse che si riascolteranno in molta musica rock. E allora di Blind Lemon Jefferson ascoltiamo Matchbox Blues. I'm gonna act like a preacher. just swaggin' right from town to town. I'm leaving town. I won't make me see. I'm leaving town. Crying won't make me see. Baby, the more you cry, the further you drive me away. Allora ragazzi, eccoci tornati. Se Alessandro l'ha passato cieco, io per rispondere lo passo zoppo. Non me ne vogliano gli zoppi e i pirati. Un'altra leggenda del blues perse la gamba in un incidente e da lì il suo soprannome Peg Leg. E parliamo di Sam Jackson. Aveva una gamba di legno, proprio come quella che siamo abituati ad associare ai pirati nell'immaginario collettivo, ed è stato un grande armonicista e cantante statunitense. Nel brano che vi proponiamo, uno strumentale dove a farla da padrone è la sua armonica solista, possiamo sentirlo portare il tempo proprio con quella gamba, particolarità unica che emerge in tantissimi dei suoi pezzi. E allora amici, per la gioia delle vostre orecchie, su Radio Default, Peg Leg con Fast Freight Train. Bye. Peg Lee, Samuel Jackson e Whiskey Trip continua ancora sulla strada del blues con due pezzi uno dietro l'altro. Ci ascoltiamo il primo di Nonno Muddy Waters, I Can Be Satisfied, e l'altro è un altro grande classico del blues, John Lee Hooker con una versione di Hobo Blues dal vivo dall'American Folk Blues Festival del 1965. E vi auguriamo buon ascolto dai microfoni di Radio Default con Muddy Waters e John Lee Hooker. And I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all wood mine. Well, baby, I can't never be satisfied. And I just can't keep on. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all wood mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little baby, she gon' jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all wood mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying. Free train yard. Muddy Waters e John Lee Hooker qui per Whiskey Trip questa sera, e dopo di loro in tema di persone scomparse, persone che ci hanno lasciato prematuramente purtroppo, e c'è anche Samuel Jan Maggett, non a caso soprannominato Magic Sam, che fu un bravissimo chitarrista e cantante del blues di Chicago, purtroppo morto a 32 anni a causa di un infarto. Magic Sam è stato capace di dare una nuova vita al blues, un suo modo di suonare limpido e chiaro, suonava la chitarra. Di Magic Sam ci ascoltiamo I Just Want a Little Bit. Ci avviciniamo verso la fine della prima parte di questa puntata numero 8 di Whiskey Trip, e allora chiudiamo questa prima parte con il blues ancora in bellezza, con due pezzi. Uno è Albert King, l'altro Clarence Gate Mount Brown, ancora con due chitarristi. Allora, Albert King era un chitarrista blues, direi con i controcazzi, che suonava una Gibson Flying V, il modello a freccia della Gibson, per capirci. Insieme a B.B. King, Freddie King è considerato uno dei tre re della chitarra blues. Di Albert King ci ascoltiamo Born Under a Bad Sign, che è una bella scarica di energia, e subito dopo passiamo invece Clarence Gate Mount Brown, forse non molto conosciuto, ma anche lui era un chitarrista blues della Louisiana, che oltre a blues ha suonato anche country, folk, musica cajun, jazz, rock, rock and roll. Era un polistrumentista affermato, suonava la chitarra, cantava, ma suonava anche il violino, la viola, l'armonica, il pianoforte, la batteria, e per finire aveva anche una voce stupenda, come potrete ascoltare voi stessi ascoltando questa bellissima ballata blues, che è, il titolo è Same Old Blues. Allora mandiamo in coppia Albert King con Born Under a Bad Sign e Clarence Gate Mount Brown con Same Old Blues. Buon ascolto. One, two. Born on a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble is my only friend. I've been on my own. I begin to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. I can't read. I done learned how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad sign. I've been down since I began. Mm-hmm. morning rain keeps on falling like the tears that fall from my eyes. As I sit in my room, staring out at the gloom, it's the rain, it's the same old blues. I can't help but thinking, when the sun used to shine in my back door, now the sun out turned to rain, all my laughter turned to pain. Yes, it's the pain of the same old blues. Eccoci tornati, amici, dopo tutto questo incantevole blues, jazz, anzi o jazz, lo scriviamo l'altro giorno sulla pagina, che quelli fighi, non so se Alessandro mi conferma, sì, fa ok col pollice, quelli fighi dicono jazz, com'è Alessandro, troppo, mi fa cenno di troppo bianco. Va bene, quindi Alessandro, io comincio con... il nostro caro Miles Davis, va. Il brano che ho scelto vede nel personale, per l'appunto, Miles Davis alla tromba, Horace Silver, leggenda del pianoforte, per l'appunto al pianoforte, Percy Heath al basso e il grandissimo, immenso, strepitoso Art Blakey alla batteria. E allora dall'album Blue Aids del 54 ci ascoltiamo Old Devil Moon. ¶¶ Ed era Miles Davis, ragazzi, con Old Devil Moon, un gigante della musica jazz, un personaggio, un musicista che personalmente amo davvero molto. È uno di quelli che ha avuto una carriera lunghissima, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del jazz, ma direi non soltanto nel jazz, nel modo di pensare la musica degli ultimi 50 anni, nella storia, nell'estetica del jazz. E il prossimo pezzo è un pezzo che veniva pubblicato in un disco del 1957 dal titolo Bag's Groove, sul quale suonano Sonny Rollins al sassofono, Ray Silver anche al pianoforte, anche Thelonious Monk in alcune tracce al pianoforte, Kenny Clarke alla batteria. Il disco è pubblicato nel 1957, ma è registrato alcuni anni prima, nella notte della vigilia di Natale del 1954. E in quella notte i migliori musicisti sulla piazza stavano ridisegnando la musica dell'epoca, e il pezzo che ascoltiamo, un pezzo che originariamente è stato composto dal compositore americano George Gershwin, e si chiama But Not For Me. Thank you. Ragazzi, con questo jazz continuiamo con un altro davvero immenso. Parliamo di Bobby Timmons, che crebbe a Filadelfia, allevato dal nonno sacerdote della cui chiesa, dopo aver iniziato a prendere lezioni di piano, a soli 6 anni divenne l'organista. La formazione musicale gospel, unita a una grande padronanza della mano sinistra, gli fu di aiuto per sviluppare la capacità di improvvisazione che avrebbe portato il pianista a sfoggiarle energia ritmica e ricchezza melodica in un voicing che richiama Red Garland. Trasferitosi poi a New York, non ancora ventenne, divenne subito, assieme a Wynton Kelly, uno dei pianisti più richiesti. L'esperienza più significativa fu quella nel 1956 col gruppo di Chet Baker, che annoverava anche Phil Urso e Art Farmer. Seguirono tantissime collaborazioni con Hank Mobley, Sonny Stitt, Lee Morgan, Curtis Fuller, Maynard Ferguson, Art Pepper, Kenny Barrel, sono tantissimi, fino al suo approdo nel 58 ai Jazz Messengers di Art Blakey. E a quel periodo risale la sua più celebre creazione, Monin, che divenne un classico e per un breve periodo transitò anche nel quintetto di Cannonball Adderley, a cui offrì altre due famose composizioni, Desire e Dad Dare. Lasciati Jazz Messengers, nel 61 Timmons creò una propria formazione di 3 elementi, ma non riuscì a raggiungere il successo dei leader con cui aveva suonato negli anni precedenti. E quindi, scusate se mi emoziono su questo pezzo, no, in realtà mi era sparito un foglio, diciamolo. La sua, quindi, fortuna, dicevo, lentamente declinò. Il pianista, che comunque non smise di essere attivo, devastato dalla dipendenza dell'alcol, morì di cirrosi epatica a soli 38 anni. Porella aggiungerei. E quindi, ragazzi, su Radio Default, il Bobby Timmons Trio con The Sit In. E eccoci tornati, amici, procediamo spediti come un treno, con proprio senza perderci in chiacchiere, con sciccoria. Prendiamo adesso la seconda traccia dell'album Now He Sings, Now He Sobs del 68, che vede appunto Sciccoria al piano, Miroslav Vidus al basso e il grandissimo, la leggenda Roy Haynes ai tamburi, insomma, alla batteria. E quindi non ride, perché guarda, è una cosa seria questa di stasera, sto presentando, lo conosci questo pezzo innanzitutto? Lo vedi, non sanno e... Viene qui per imparare, ecco. Quindi abbiamo pure riassunto in due parole lo spirito che contraddistingue cosa, Alessandro? I ragazzi di Radio Default. Grande, grande. Allora, regà, ecco, senza... Prima, Dao, dicevamo che... Lo posso dire pubblicamente che c'avevo problemi nella lettura, come abbiamo detto prima, che abbiamo una scialla in bocca questa sera, amici. Quindi scusate il genzanese. Va bene, quindi dicevamo sciccoria, proseguiamo con Matrix su Radio Default. Thank you. E questo era Chick Corea con Matrix. Siamo ancora qui su Radio Default con Whiskey Trip. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Whiskey Trip, www.facebook.com/whiskeytrip, dove trovate video, le playlist delle puntate. E passate pure a lasciare un commento, a visitare la nostra pagina, ci fa piacere. E seguiteci sul sito di Radio Default, www.radiodefault.it. E continuiamo con il blues e con il jazz mentre entriamo nella notte, atmosfera giusta per ascoltare musica. E allora c'è una richiesta a cui rispondiamo molto volentieri. C'è Manuele, che è un nostro ascoltatore, che ci chiede qualcosa di Oscar Peterson, e lo accontentiamo molto volentieri, perché parliamo con Oscar Peterson di una istituzione del jazz. E allora abbiamo scelto un pezzo che nel 1973 Oscar Peterson, che spesso suonava in trio, pubblicò questo disco con il chitarrista italo-americano Joe Pass, il contrabbassista danese, un virtuoso del contrabbasso, Niels Henning Ørsted Petersen. E ci ascoltiamo una loro versione di una canzone pop composta da Sammy Fain, che è Secret Love. Allora, su Radio Default, Oscar Peterson con Secret Love. Thank you. E allora vabbè, dai, soltanto per voi un altro pezzettino di Oscar Peterson, una cover a questo punto aggiungerei, che sì, proprio lei, Volare nel blu dipinto di blu, tra parentesi, e ce l'ascoltiamo nella sua jazzata versione. Eccoci tornati, cari amici, adesso iniziamo un angolo dedicato ad un immenso del jazz. Nemmeno mi voglio perdere in chiacchiere, metto una sua traccia, magari lo riconoscerete subito dalle sue note. Thank you. L'avete riconosciuto? Era lui o non era lui? Allora, questa era CBS dall'album Mingus. Non si può dire troppe volte. Possiamo chiamarlo Mingus alla quinta? Non so, pensi si offende. Qui no, sto parlando con la tosse di Andreotti. Era, ecco, la sentite forse in sottofondo. Allora, volevamo leggere, mentre passavamo qualche traccia del nostro caro, dai, Charles Mingus, facciamo un secondo di serie, e abbinarci un articolo molto interessante che abbiamo trovato in rete sul sito jazzer.it, e leggo. Beneath the Underdog è il titolo che Charles Mingus ha voluto dare alla sua autobiografia, titolo che nella traduzione letterale diventa Peggio di un bastardo, o anche se è sottolineato che il termine underdog nello slang americano delle corse indica il cavallo che parte svantaggiato dal pronostico. E forse è tutta qui la spiegazione della rabbia esistenziale che pervade la vita e l'opera artistica di Mingus, disadattato, imprevedibile, irascibile, contestatore e a volte, sfruttando anche la propria notevole mole, violento, incline alla depressione ma anche alla rivolta e costantemente ossessionato dagli atteggiamenti razzistici subiti a causa delle sue origini meticce, tanto da autodefinirsi The Hungry Man of Jazz e da rifiutare qualsiasi tipo di compromesso che potesse ledere all'integrità propria e della propria musica. Mingus nasce il 22 aprile del 22 a Nogales, in Arizona, paesino ai confini del Messico, ma fin da piccolo si trasferisce nel turbolento ghetto losangelino di Watts. Questa circostanza, unita al suo provenire da un ambiente ispanico e soprattutto alle sue origini che non possono essere più diversamente assortite, i genitori della madre infatti sono di nascita cinese e inglese, mentre il padre è figlio illegittimo di un bracciante nero e della nipote di un lavoratore svedese, l'hanno portato fin dall'infanzia a subire una sistematica emarginazione e alla costante sensazione di sentirsi discriminato sia dai bianchi che dai neri. Per affrancarsi da questa situazione di forte disagio, il giovane Charles sviluppò una forte e determinante voglia di riscatto, cercando con tutte le forze di eccellere in qualcosa. Così, sebbene la madre morì quando lui aveva pochi mesi, in casa ammettesse esclusivamente musica religiosa, si mise d'impegno a studiare prima il trombone, poi il violoncello in ambito classico. Infine, appassionatosi al jazz, il contrabbasso, divenendone un vero virtuoso e col tempo uno dei più grandi contrabbassisti e band leader che il jazz abbia mai avuto. È proprio la sua fama di grandissimo strumentista che lo porta già all'età di 20 anni a suonare con personaggi quali Louis Armstrong, i fratelli Russell, Illinois Jacket, Chico Hamilton, Lionel Hampton, il trio di Red Norvo, fino ai boppers come Bud Powell e Charlie Parker, che pur disapprovandone le abitudini autodistruttive considerava un genio e il maggior innovatore del jazz. Scorrendo questi nomi è evidente quanto Mingus fosse un musicista eclettico, capace di spaziare tra i più diversi stili, primeggiando in ciascuno di essi. Sono proprio queste sue caratteristiche di eccellente musicista, di ribelle dall'animo sensibile e fortemente impegnato, a fare di lui quello che si potrebbe definire un poeta esiliato e spiantato, che sopravvive grazie alla sua musica, alla sua forza, alla sua capacità di rigenerarsi, facendo da catalizzatore per innumerevoli stimoli e linguaggi. Agli inizi degli anni 50 Mingus si sposta a New York, dove con il batterista Max Roach fonda l'etichetta indipendente Debut Records, nata con l'idea di promuovere musicisti che non volevano sottostare ai compromessi delle major, però verrà liquidato nel 57 per passare alla fantasy, non prima di aver pubblicato un paio di dozzine di album di ottima fattura, tra cui vale la pena ricordare Jazz at Massey Hall, registrazione del famoso concerto di Toronto del 15-5-53, dove sul palco ci sono Dizzy Gillespie e Charlie Parker, per l'ultima volta insieme loro due, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach, per quello che da molti è considerato il canto del cigno del bop. Ma il bop a Mingus va comunque stretto, la sua idea di jazz va ben oltre e si concretizza nel cosiddetto workshop, ovvero un ensemble da 7 a 10 musicisti, variabile per numero e per organico, con il quale poter sperimentare nuove strade espressive. Mingus chiedeva ai suoi di liberare ed esplorare le proprie sensazioni e percezioni del momento in modo espressionistico, anticipando per molti aspetti le tecniche di improvvisazione collettiva che saranno alla base del free jazz. È nel periodo che va dal 55 alla fine del decennio, nella quale inciderà moltissime e per moltissime etichette, caratterizzato da un clima che di ribollente vitalità che Mingus dà alle stampe i propri album più significativi, per i quali diventerà una figura fondamentale del jazz. In essi è capace di innestare un impianto sostanzialmente ereditato da forme tradizionali, in modo particolare ellingtoniane, blues, la sua vigorosa spinta rivoluzionaria sperimentando le nuove istanze del new thing. Fondamentale per Mingus è la valorizzazione della voce strumentale dei singoli componenti del gruppo, ma altrettanto fondamentale è l'integrazione delle singole voci in linee melodiche che paiono sempre sul punto di esplodere nel parossismo oppure a percorrere strade diverse, sconfinando nel folklore o nell'astrazione. E su tutto questo è evidente il collante rappresentato dall'energia propulsiva e passionale del leader, che convoglia tutta la sua rabbia esistenziale in una produzione artistica che in realtà è rappresentazione diretta della propria esistenza. E allora continuiamo dopo con la fine dell'articolo, lo intervalliamo con una traccia. Scusate, intanto lavori in corso, problemi tecnici, chiamatevi come volete. Eccola qui, grande per fortuna che c'ho Alessandro, se no regà. Che è la traccia è dall'album Aum, famosissima. Abbiamo già passato qualcosa di questo disco che è del 59, se non erro abbiamo passato un'altra traccia sconvolgentemente esplosiva che era Boogie Stop Shuffle. E adesso ci ascoltiamo invece Better Get It In Your Soul, Charles Mingus. Thank you.

torniamo ancora con Charles Mingus dopo questa Better Get It In Your Soul. Continuiamo a parlare di questo grande musicista e di questa grande figura del jazz. E prima del break raccontavamo qualcosa della sua vita e delle sue composizioni, e allora eravamo arrivati circa al 1960, quando avviene un fatto importante che segnerà per sempre l'esperienza musicale di Mingus, ovvero l'incontro con Eric Dolphy, poeta, un eccellente polistrumentista, un musicista d'avanguardia al sax alto e anche al clarinetto basso, che per primo porterà alla ribalta della pratica improvvisativa e al flauto. Con il marziano del jazz, così lo definisce Claudio Sessa nella sua monografia, Mingus condivide una sorta di ideale comune, ovvero sviluppare un'avanguardia capace di non porsi in posizione di rifiuto ideologico rispetto alle posizioni più tradizionali. I due, con Ted Carson alla tromba e Danny Richmond, già un fidato collaboratore di Charles Mingus in passato, alla batteria, formano un quartetto a volte allargato a quintetto con l'entrata di Booker Ervin al sax tenore. Le registrazioni effettuate non sono molte, ma sono tutte di assoluto rilievo, e in esse Mingus pare voglia contrapporsi al coevo quartetto di Ornette Coleman nel voler cercare nuove forme espressive, incanalando la sua forza propulsiva in esecuzioni intense e propositive che si affiancano più che aderire alle nuove forme dell'avanguardia. Questo propendere verso il free jazz non impedisce comunque a Mingus di incidere uno splendido disco in trio, Money Jungle, del 1962, con Max Roach alla batteria e al pianoforte e niente meno che il suo nume tutelare Duke Ellington. Questo periodo proficuo, verso il 1965, si dirada lentamente, fino a chiudersi del tutto quando Mingus decide di interrompere l'attività musicale. Le motivazioni sono rimaste misteriose, ma molto probabilmente ciò fu dovuto alla prematura scomparsa di Eric Dolphy. Nella primavera del 64, infatti, il contrabbassista, con uno dei suoi gruppi più famosi, ovvero il sestetto con Dolphy, Richmond, Jackie Byard, Clayton Jordan e Johnny Coles, affrontano una splendida tournée europea, i cui concerti parigini sono documentati nel doppio CD The Great Concert of Charles Mingus. Alla fine di essa, Dolphy non fa ritorno negli States, avendo deciso di formare un quartetto con Misha Mengelberg, Jacques Scholz e Anne Benning, con i quali gira l'Europa per una serie di concerti, dai quali vengono estratti alcuni dischi pregevoli, da ricordare ad esempio Last Date. Ma il 28 giugno, durante un'esibizione, Dolphy, che è diabetico, è vittima di un attacco iperglicemico che il giorno dopo lo condurrà alla morte a soli 36 anni. Mingus, che più volte aveva chiesto all'amico di far ritorno nel suo gruppo, ne rimane sconvolto e si chiude in un mondo fatto di debiti, di cure psichiatriche e di dipendenza dal sesso e dagli psicofarmaci. Ne riemerge nei primi anni 70, dapprima con la stampa della propria autobiografia, dove parla soprattutto di donne, senza fare praticamente accenno alla musica, e poi con la pubblicazione di Let My Children Hear Music del 71, che con il recupero di certe sonorità third stream appare più un'operazione di recupero storico piuttosto che di introduzione di nuove istanze. A questo punto però Mingus non è più pervaso da quella tensione febbrile che lo accompagnava, ma è un uomo estremamente cambiato, imbottito di tranquillanti, appesantito nel fisico e nello spirito, apatico e svogliato. È solo una pallida immagine del musicista iperattivo che il mondo jazzistico conosceva. Ciò nonostante, e pur con una logica ed evidente involuzione della propria arte, Mingus riesce comunque a produrre ancora delle opere degne di nota, incentrate ancora una volta soprattutto sul blues e sugli insegnamenti ellingtoniani, sfruttando la sua capacità innata di coinvolgere abili musicisti, scrivendo espressamente per loro e per le loro caratteristiche. Purtroppo a metà degli anni 70 gli viene diagnosticata una sclerosi laterale amiotrofica, malattia terribile che ben presto gli impedirà del tutto di suonare il contrabbasso, ma che gli consentirà comunque di comporre e di supervisionare le registrazioni. La malattia lo porterà alla morte a soli 56 anni nel 1979, mentre si trovava a Cuernavaca in Messico, dove si era stabilito con l'illusione di poter guarire grazie alle cure di una famosa guaritrice. La leggenda, peraltro confermata da più parti, anche dalla moglie Sue Graham Mingus, narra che il giorno della sua morte, su di una spiaggia di Acapulco, si arenarono 56 balene. Le ceneri del musicista vennero gettate nel fiume Gange. L'opera di Mingus appare come una sorta di trade union tra le due grandi rivoluzioni del jazz, ovvero il bebop e il free, senza peraltro cercare associazioni con nessuna delle due, ma anzi mantenendo un'autonomia di fondo nella quale convivono ardite innovazioni e inossidabili fondamenti della tradizione. Così il musicista di No Gales difficilmente viene associato ad uno stile particolare. Non lascia scuole, non si identifica in un genere. Troppo universale, troppo osmotico il suo jazz per essere confinato in ambiti ristretti. Troppo magnetica la sua personalità, maieuticamente canalizzatrice di energie. Lascia piuttosto un testamento spirituale, ancora prima che musicale, di libertà, di apertura e di curiosità, raccolto da diversi musicisti che, in autonomia, faranno proprio i suoi insegnamenti. Tra i tanti, Steve Lacy, Roland Kirk, Mal Waldron, Jackie Baird, Jimmy Knapper, Pepper Adams sono debitori verso il contrabbassista dell'impostazione basilare del loro modo di concepire la tessitura musicale. Allora, per chiudere, Antonio vi presenta ancora un pezzo di Charles Mingus. Ricordiamo intanto che questo angolo su Mingus è gentilmente offerto dai maglioni di Bill Cosby, che sono il nostro sponsor ufficiale. E per chiudere, come diceva Alessandro, da Blues & Roots del 59, forse l'album più swingeggiante, perdonate il termine, terreno del nostro Mingus, chiudiamo con l'immensa Wednesday Night Prayer Meeting. Thank you. lunga maratona di jazz questa sera qui su Radio Default con Whiskey Trip. Sono ormai sulle 2 ore di trasmissione, abbiamo ancora musica da ascoltare e andiamo avanti nella notte. Se parlavamo di Mingus, se c'era qualcuno che Mingus ammirava davvero, con cui ha suonato spesso e cui il suo stile si ispirava, era il grande compositore del jazz Duke Ellington, che con le sue oltre 1000 composizioni è tra le principali figure del jazz, e la qualità della sua opera può essere messa accanto a quella dei grandi compositori di musica colta. Molte delle composizioni per orchestra, per big band di Duke Ellington divennero delle canzoni raffinate interpretate da altri grandi del jazz. Ascoltiamo 3 pezzi in sequenza. Il primo è Sophisticated Lady, nell'interpretazione di Sarah Vaughan, e la sognante In a Sentimental Mood con la voce di Nancy Wilson, e per chiudere invece una collaborazione con Louis Armstrong dal titolo I'm Beginning to See the Light. Allora, il primo pezzo Sophisticated Lady, poi In a Sentimental Mood, e a chiudere I'm Beginning to See the Light con Duke Ellington su Radio Default. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, no, no, no. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago, and when nobody is nigh, you cry. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. And then with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow, I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, no, no, no. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago, when somebody is nigh, you cry, you cry, you cry. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all in a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental. Skies. I never went back for fireflies. Now that the stars in your eyes are beginning to see the light, I never went in for afterglow. Candlelight on the mistletoe. Now that you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Yes, used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a full on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I begin to see the light. Yes, I never cared much for moonlit skies. Never went back to fireflies. But now that the stars are in your eyes, I begin in. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But not when you turn the lamp down, no, I begin in. Used to ramble to park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused that spark, the full on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your chops are burning mine, I'm beginning, yeah. Con Duke Ellington, questi tre pezzi, ci avviciniamo alla fine di questa nostra lunga puntata, ma ancora qualcosa da ascoltare ce l'abbiamo durante questa notte, questa serata, questa notte insieme a Whiskey Trip su Radio Default. E allora chiuderei con due grandi pianisti. Il primo è Thelonious Monk, che Thelonious Monk era un pianista che aveva una maniera assolutamente personale di suonare e di concepire la musica. Aggrediva il pianoforte con sincopi, pause, silenzi, percuoteva la tastiera nervosamente e con ritmi anormali, quasi a voler disorientare l'ascoltatore. La sua musica sembra nascere da qualche luogo misterioso, conosciuto solo nella sua testa, e ogni tanto si ferma poeticamente in mezzo a stelle e a buchi neri. Round Midnight, intorno a mezzanotte, e veramente pezzo non fu mai scelto meglio, perché mancano appunto 10 minuti a mezzanotte e ci ascoltiamo questa Round Midnight di Thelonious Monk, che è una delle diverse composizioni, sue composizioni diventate jazz standard, entrate nel repertorio dei jazz standards, e la composizione jazz più incisa e suonata di sempre, appare in oltre 1000 album, è incredibile, 1000 album di artisti diversi. Noi ce la ascoltiamo dal vivo in una versione del 1966, e a seguire ci ascoltiamo un altro grandissimo pianista che è Bill Evans con Waltz for Debbie. Allora, Thelonious Monk, Round Midnight, quando mancano 10 minuti alla mezzanotte, e a seguire il famoso Waltz for Debbie di Bill Evans. Thank you. anche io ascolto Whiskey Trip su Radio Default, perché volevo dare la mia solidarietà ai fratelli neri. Thank you. E davvero dopo Thelonious Monk e Bill Evans siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata e vi auguriamo una buona notte o un buon proseguimento nella vostra notte e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì con la puntata di Whiskey Trip, con il nostro consueto appuntamento del mercoledì sera. E prima di salutarvi, prima di passare il microfono anche ad Antonio, vi lasciamo con uno dei massimi maestri della chitarra, che è B.B. King, con un pezzo che si chiama Blues Boys Tune, dal Live a Montreux del 93. E vi auguriamo buon ascolto e appuntamento alla prossima puntata. Sì, Alessandro, devo solo ricordare un'altra volta il nostro caro sponsor, i maglioni di Bill Cosby, e poi soprattutto di cuore, mo siamo alla fine, siamo in un orario notturno, penso si possono dire più cose, non siamo in fascia protetta, quindi volevamo ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno creduto, hanno sperato, si sono dati da fare nel gufare la morte di Andreotti. Siamo d'accordo, Alessandro, lo possiamo dire? Io ancora non ci credo, ma possiamo dirlo, certo. Ma è un'emozione, quando è successo, quanto è passato, 2 giorni, c'ho ancora i brividi, non puoi capire, siamo contentissimi e niente, ci vediamo mercoledì prossimo e vi auguriamo buonanotte.